Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria, in una puntata in cui, come sempre, venerdì avremo anche la poco invidiabile classifica del programma sugli sprechi nella pubblica amministrazione. Allora, per quello che riguarda le borse, oggi sono tutte deboli, meno 1,60% Milano, che scende sotto i 17.000 punti, meno 0,90 Parigi, meno 1,25 Francoforte, meno 0,80 Londra, mezzo punto percentuale di calo per quello che riguarda il Dow Jones. Euro a quota 1,11, tra i titoli segnalo a Milano di nuovo deboli e in alcuni casi pesantemente deboli le banche: Popolare Emilia Romagna meno 7%, Banco Popolare meno 5, Unicredit meno 4, Intesa San Paolo meno 3%, Unipol meno 2,5, UbiBanca meno 2,40%. Debole di nuovo, ma è già sui minimi, Saipem meno 5% in questo momento e Tenaris perde il 4% come Telecom Italia, Iux Net-a-Porter meno 3,40%, Fiat meno 3%. Che cosa è successo? È successo che il petrolio, dopo un leggero recupero di ieri, è tornato a calare, è sceso sotto i $30 al barile, giù del 4%, e quindi i titoli legati al petrolio e all'energia ne risentono. Parleremo di petrolio anche perché ci sono alcune notizie che arrivano dalla Russia su questo. Dopodiché, per quello che riguarda gli altri temi di questa giornata economico-finanziaria, continua a esserci, non dico maretta, ma insomma un po' di dibattito su quanto detto ieri dalla Corte dei Conti sulla spending review. Attenzione, perché insomma ne abbiamo parlato ampiamente, la spending review, ossia la revisione della spesa, obiettivo non raggiunto dal governo rispetto alle intenzioni nel 2015, non c'è nessun dubbio su questo, e abbiamo avuto modo di criticare anche la scelta del governo di far fuori il commissario della spending review Cottarelli, che è tornato al Fondo Monetario, perché questo vuol dire Gutgeld, che è il nuovo commissario, quando è venuto a ospite ha sempre avuto modo di illustrare anche come si muoverà. Però è indubbio che si è perso del tempo, perché tra quando Cottarelli è andato ed è andato via, è tornato al Fondo Monetario Washington e poi è arrivato Gutgeld con Perotti, che invece anche lui ha abbandonato la carica, diciamo, di co-commissario alla spending review, si è perso del tempo. E siccome la spending review fatta bene non è un taglio lineare che riduce i servizi e taglia come una mannaia in maniera indiscriminata, ma è proprio un entrare nel merito e nel dettaglio delle varie voci di spesa e capire quali tenere, quali magari anche aumentare se necessario e quali ridurre brutalmente, ci vuole tempo, non la fai con un decreto. Dicevo, c'è ancora da questo punto di vista un dibattito sulla spending review e sul documento che oggi è stato fatto circolare dal governo sui dettagli della spending review. Quindi parleremo anche di questo, oltre che di borsa, di petrolio della classifica, questo per chi me lo chiede. Ripeto, sul fronte dal punto di vista bancario, vedo già molti messaggi, non c'è una novità forte sulle banche italiane, quindi è un calo che ahimè dobbiamo archiviare come calo tipico di queste ultime settimane in cui c'è un tentativo di recupero e poi di nuovo le banche tornano a calare. C'è però il rapporto del Centro Studi Confindustria che sottolinea come le nuove regole sulle banche aumenteranno i rischi per l'economia e rischiano di frenare la crescita in Italia. C'è un altro dato di cui parleremo brevemente ed è il numero di liti fiscali. Oggi è stato infatti inaugurato l'anno giudiziario e il presidente della giustizia tributaria, Mario Cavallaro, ha ricordato come vi siano 34 miliardi nel 2015, 34 miliardi di euro di liti, questo è il valore complessivo delle liti con il fisco, 22 miliardi pendono davanti alle commissioni provinciali, 12 miliardi davanti a quelle regionali. C'è un altro tema di cui ci occuperemo in maniera, se vogliamo, trasversale, perché non è un tema strettamente economico, però la demografia è una variabile economica lo dico perché oggi non ce la facciamo approfondirlo, ma da chi studia economia sa che la variabile sociodemografica è una variabile importantissima nell'economia. Perché? Perché come i nostri GR 24 vi hanno già ricordato, nel 2015 non tanto o non solo si è registrato un altro minimo di quanto a nascite nel paese, il dato è analogo al 2014, ma dico c'è meno notizia lì perché è un po' di anni, ahimè, che raccontiamo come le nascite in questo paese, anche per l'assenza di politiche per la famiglia, anche per l'assenza e anche complice la crisi, siano in calo. In realtà il dato più incredibile è non tanto le nascite al minimo storico dall'Unità d'Italia, ripeto, sostanzialmente in linea col 2014, ma il fatto che come numero di morti il tasso di mortalità in questo paese è cresciuto al 10,7 per mille, che è un livello altissimo ed è il livello più alto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Si sta cercando, ascolteremo alcune interviste, di capire quale sia il motivo, alcuni lo collocano in politiche anti-influenzali o quelle, tutta la polemica sui vaccini che potrebbe aver colpito anche gli anziani. Fatto sta che la somma tra minimo storico nella natalità e massimo storico nella mortalità ha prodotto un dato assolutamente negativo su quella che è la demografia di questo paese. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, rapidamente le altre notizie in breve. Allora, partiamo dalle notizie internazionali. A Mosca il governo fa sapere che Rosneft, il colosso petrolifero russo, sarà privatizzato, verranno collocate quote della compagnia sul mercato, e poi aggiunge Mosca, il congelamento della produzione di petrolio, quello deciso con Riyadh, con l'Arabia Saudita, sarà efficace anche senza un'adesione dell'Iran. E poi stima come improbabile la possibilità che Stati Uniti, Brasile e Messico aderiscano all'accordo. Però il calo del petrolio, delle entrate dovute al petrolio e al gas in Russia, che ha portato, oltre all'embargo, anche ha contribuito a aumentare la recessione in Russia, porterà la Russia a spendere meno nelle spese militari, nelle spese per la difesa, il 5% nel 2016, a causa anche in questo caso di una spending review, di una revisione della spesa in Russia. Sostanzialmente la spesa era fissata a 3 migliaia di miliardi di rubli, sono 41 miliardi di dollari, o il 4% del PIL, e verrà ridotta appunto del 5%, questa cifra di 41 miliardi di dollari. E continuano ad arrivare dati negativi dal Brasile dopo quelli dell'altro ieri su una recessione pesante, pesantissima. Anche la disoccupazione continua a crescere, più 41,5% in un anno, ha toccato il 9% alla fine del 2015. In Europa invece la sterlina è scivolata ai minimi da 7 anni nei confronti del dollaro, nel senso che è arrivata sostanzialmente a essere scambiata 1,4 dollari. Questo per le incertezze sulla permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea, la cosiddetta Brexit. Un sondaggio diffuso vedrebbe 36% di britannici favorevoli all'uscita a fronte del 34% di contrari. Sappiamo che anche oggi il negoziato è stato tutto in salita e si è rimandato di continuo l'inizio dei lavori, è praticamente cena all'inglese, ha detto il portavoce del commissario del Consiglio Europeo Donald Tusk, e quindi andremo avanti con orario da riconfermare. Allora, intanto in Europa si segnala un calo della fiducia dei consumatori, mentre Eurostat diffonde un dato sull'Italia, che è il paese in Europa dove con il tasso più elevato di persone che da disoccupate sono diventate inattive. Questo è importante perché sappiamo che la disoccupazione va a registrare solo chi cerca un lavoro e non ce l'ha, mentre gli inattivi non vengono calcolati nei disoccupati. Il dato degli inattivi si ha quando si guardano gli occupati, cioè chi lavora ha fatto 100 tutta la platea di chi potrebbe lavorare. Ebbene, su 100 persone che cercavano lavoro, 14 hanno trovato un'occupazione, 44 sono ancora disoccupate, mentre 41 si sono spostate nella categoria degli inattivi, cioè che non cercano nemmeno il lavoro. Il dato a livello europeo è simile tra quelli che hanno trovato un'occupazione, 18 su 100. 62 sono rimaste disoccupate, 19 sono diventate inattive. Cosa vuol dire questo? Che negli altri paesi europei si resta disoccupati perché c'è una maggiore dinamicità nel mercato del lavoro, maggiore speranza prima o poi di essere occupati. Da noi invece è più alta la quota di quelli che hanno intenzione di uscire direttamente dal mercato del lavoro e non cercare nemmeno più il lavoro. E allora parliamo di questo dato di carattere demografico, lo facciamo appunto, l'Istat oggi ha fotografato 488.000 nascite nel 2015, praticamente le classi di chi è nato nel 15 e nel 14 saranno classi esigue, perché già l'anno scorso sono meno di 500.000, è il minimo storico comunque dall'Unità d'Italia. Ma soprattutto i morti nel 2015 sono stati 653.000, il 9% in più rispetto al 2014, e il tasso di mortalità del 10,7 per mille è il più alto dal secondo dopoguerra. Ora uno potrebbe dire, beh, c'è anche la mortalità infantile, per fortuna, mettiamola così, no, nel senso che tutto questo aumento della mortalità si è collocato nelle classi di età delle persone molto anziane, dai 75 ai 95 anni. Dice l'Istat che il picco di mortalità è dovuto a effetti strutturali connessi all'invecchiamento e in parte al posticipo delle morti. Io questa frase però ho un po' di difficoltà a capirla, perché cosa vuol dire il posticipo delle morti non avvenute nel biennio 2013-2014 più favorevole per la sopravvivenza? Ma che uno decide quando morire, insomma, forse qualcuno sì, ma cosa vuol dire? Guarda, volevo morire nel 2013-2014, ho deciso di morire nel 2015. È un po' ambigua. Comunque, intanto, e poi scopriamo che 100.000 italiani anche nel 2015 hanno lasciato il paese, è un 12,5% in più rispetto al 2014 di italiani che lasciano l'Italia, chiaramente per lavoro, per trovare un lavoro o trovare un merito sul loro lavoro. Il ministro Lorenzin dice: abbiamo lo studio misure contro le culle vuote. Adesso dirò anche una cosa, diciamo, magari farà arrabbiare qualcuno sul tema della famiglia, perché questo è un paese in cui tutti si occupano della famiglia o prima che uno nasca o quando bisogna decidere di chi deve essere questo bambino o quando uno sta morendo, vedi eutanasia. Ci si distrae nel periodo della cosiddetta vita, cioè finché sei un nascituro, un embrione, polemiche di ogni genere, non voglio entrarvi. Faccio notare che è un paese che ancora, io vorrei sentire anche tutti i movimenti per la famiglia, che rispetto, fare una campagna parlamentare, il Family Day, così per chiedere che cosa? Il quoziente familiare, ma veramente fatelo in Parlamento, sulla pressione fiscale, per cui se hai tu hai due figli a parità di reddito paghi meno tasse rispetto a uno che è single, e poi forme di decontribuzione. L'unico paese che ha una natalità diversa rispetto agli altri è la Francia e a livello europeo l'Alto Adige, oltre che la Francia. Stranamente sono due aree in cui ci sono politiche per le mamme. In Francia i primi 500 euro vengono detratti per il pagamento della babysitter ogni mese, fino, se non ricordo male, ai primi 3 anni di vita del bambino. Per cui, oltre che riempirsi la bocca sui valori della famiglia, sui valori del bambino, ci si può anche riempire le mani e fare qualcosa. Comunque, i 100 secondi di Radio 24 e Sole 24 Ore sono su questo oggi, cioè sui dati dell'Istat. E la firma del vice direttore Alberto Orioli. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Alberto Orioli. I dati sugli andamenti demografici possono sembrare particolarmente noiosi, ma quando fotografano una situazione drammatica come quella rappresentata oggi dall'Istat, diventano particolarmente meritevoli di attenzione. Nel 2015 le nascite sono state 488.000, 8 per 1000 rispetto ai residenti, però sono 15.000 in meno rispetto al 2014. È il record storico negativo dai tempi dell'Unità d'Italia, proprio così. Avete sentito bene, dall'Unità d'Italia, cioè da oltre 150 anni. Il saldo tra nascite e decessi è negativo per 165.000 unità, anche perché i morti sono stati 653.000, ben 54.000 in più dell'anno precedente. È un altro record questo, purtroppo anch'esso negativo, questa volta rispetto al dopoguerra, con un tasso di mortalità sulla popolazione ormai arrivato al 10,7 per 1000. Se poi si accoppiano questi numeri al dato di invecchiamento della popolazione, la conclusione diventa tremenda. Gli ultra 65 anni sono 13,4 milioni, il 22% del totale. Erano il 21,7% nel 2014. È chiaro che dobbiamo prendere atto che siamo il secondo paese più vecchio del mondo, con una tendenza al peggioramento. Gli immigrati un po' compensano questo trend e nel complesso sono ormai l'8% della popolazione totale, pari a 5 milioni, ma comunque il flusso è in calo. Che in Italia si è ripartita invece l'emigrazione verso l'estero, l'avevamo percepito da tempo. Ora l'Istat ci offre però la fotografia quantitativa. Nel 2015 sono state 100.000 le persone che hanno spostato la loro residenza formale all'estero e sono il 12,4% in più rispetto all'anno prima. Dall'Italia quindi si fugge, anche perché, ed è l'ultima amara sorpresa, è diminuita la speranza di vita. Per gli uomini diventa 80,1 anni, prima era di 80,3, e per le donne di 84,7, in calo rispetto agli 85 del 2014. Da un punto di vista statistico, oggi è davvero una brutta giornata. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, vedo molti messaggi, cosa vuol dire le politiche per la famiglia? Vuol dire, per esempio, ma insomma, adesso vorrei parlare di economia, però la demografia è un elemento economico, perché se tu hai il massimo di mortalità dall'Unità d'Italia e il minimo di natalità, il minimo di natalità dall'Unità d'Italia, il massimo di mortalità dalla Seconda Guerra Mondiale, poi dobbiamo anche porci il problema dei flussi migratori, va al di là di tanta retorica, è giusto o non è giusto che arrivino gli immigrati, dove vuoi andare con questi numeri? Allora, la demografia è economia, perché tutti i dati statistici ci dimostrano che nei paesi dove vi sono reali politiche per la famiglia, non quelle religiose, ma reali soldi per la famiglia, il tasso di natalità in Francia e in Alto Adige è il doppio o una volta e mezzo, quindi è l'unico tasso in cui hai più nati che morti. E guardatevi le statistiche, non è un caso se poi la Francia ha politiche attive per le mamme che lavorano o i papà che vogliono avere, diciamo, godere della paternità. Noi abbiamo fatto zero su questo, facciamo i family day quando c'è un motivo etico, va benissimo, che ognuno la pensa come vuole. Poi abbiamo una legge assurda dove la parte più oltranzista dei cattolici ha voluto una legge sulla fecondazione assistita che obbliga, altro costo economico, le famiglie che se lo possono permettere, andare in Spagna a farsi fare fecondare la moglie o la compagna, perché noi con i tre embrioni abbiamo scoperto che tre è il numero perfetto, come recita la pubblicità, referendum che fallì, e quella fu la parte più, non ho problemi a dirlo, oltranzista del mondo cattolico. Ma se una donna voleva dei figli, ma perché deve andare a volare in Spagna a spendere dei soldi quando avevamo una legge sugli embrioni per l'embrione? Vabbè, occupiamoci dell'embrione, però mai una lira per le mamme quando i figli ce li hanno, mai. Bisogna occuparsi sempre dell'eutanasia, ma non c'è una legge che permetta di scaricare fiscalmente le badanti per gli anziani. Allora io vorrei che il mondo cattolico tutto, a partire dalla politica, così sensibile ai temi della vita, e ci mancherebbe, fosse sensibile anche ai temi di quando la vita si svolge, non prima che inizi o quando sta per finire. Legge eutanasia. Non è un ragionamento assolutamente economico. Comunque, su questi dati demografici sentiamo Giancarlo Blangiardo, che è professore di demografia all'Università Bicocca di Milano, è intervenuto questa mattina, ora di pranzo, a Effetto Giorno con Simone Spezia, e già qualche mese fa li aveva anticipati questi numeri. Il 2015 ha in qualche modo generato mortalità e di situazioni che erano state beneficiate nell'anno precedente perché c'era stata una mortalità decisamente più bassa. Questo è uno degli effetti, poi tutto questo naturalmente si mette insieme, a mio parere, ad una riduzione dell'efficienza del sistema sanitario, perché inevitabilmente qualcosa c'è dietro, e poi anche al famoso effetto delle vaccinazioni non praticate. Cioè, nel 2014 c'è stata tutta una polemica sulle vaccinazioni che facevano male, e la gente non si è vaccinata e poi in qualche modo ne ha pagato le conseguenze. Tutto ciò messo insieme porta a questi, diciamo, circa 60.000 morti in più, che sono una sorta di grande novità da parecchio tempo a questa parte, cioè non succedeva se non in tempo di guerra. Sì, poi c'è tutto il tema dei vaccini, dove alcuni geni si sono inventati che improvvisamente i vaccini dei bambini non servissero più. Abbiamo visto delle inchieste pesantissime su quello che è successo, sono riapparse morti che prima non c'erano, e alcuni esperti ritengono che forse i bambini anche più a rischio perché non vaccinati possono avere contagiato di più gli anziani. Comunque sono due cose diverse. È certo che la demografia è una variabile economica, lo dico chi sta scrivendo al 349-238-6666 su WhatsApp e come SMS, perché o becchi i flussi migratori o non riesci, ma soprattutto abbiate pazienza, tu puoi allungare l'età pensionabile quanto vuoi, puoi portare anche i nonnetti in fabbrica, però dobbiamo renderci conto che o tu hai un rapporto tra la popolazione attiva e la popolazione che ha già lavorato e quindi tu mantieni sano, o se no non regge neanche il sistema pensionistico. Per cui le politiche per la famiglia non sono un qualcosa che va bene ai cattolici, ma male ai protestanti e piace agli ortodossi, è un qualcosa che serve al paese. Lasciate fuori la religione da queste cose. Dico solo che tutti quelli che ogni volta che c'è si riempiono la bocca con la famiglia, vorrei che in Parlamento si trovasse una maggioranza, ci metti una settimana, trasversale, ok? Come quella su altri temi, per avere finalmente il quoziente familiare sulla pressione fiscale, finalmente lo sgravio fiscale sulle badanti e sulle babysitter in busta paga, ok? E vedete che in un attimo torna la demografia a salire anche da noi. Meteo e pubblicità, altro che in più. Focus Economia. La classifica della settimana. Allora, respiriamo un attimo. Mi sta scrivendo un ascoltatore. Dov'è che l'ho perso? Quello della Svezia. Insomma, che ha praticamente asili gratis, mezzi gratis, non so quanto. Adesso nessuno vuole arrivare alla Svezia. Occupiamoci della Francia come riferimento. Comunque. Andiamo con la classifica degli sprechi. Voglio dire, al quinto posto, giusto per alleggerire un attimo, visto che chiuderemo con andremo a parlare anche dei senatori che timbrano per la diaria e del fondo per le piccole e medie imprese della regione Calabria, vorrei iniziare con una cosa un po' ironica. Non è diciamo un elemento di spreco in senso stretto, però insomma è successa una cosa un po' strana a Milano, nel senso che il giudice che stava condannando, e poi il problema è che ha anche dei costi nella giustizia amministrativa, questo sì, praticamente il giudice della quinta sezione penale del Tribunale di Milano, Maria Pia Bianchi, ha emesso un dispositivo, solo che si è sbagliata a trascrivere, e quindi ha condannato, invece che la persona da condannare, ha condannato il suo avvocato, che è un caso un po' interessante di transfer, nel senso ha condannato il PM che accusava, non in avvocato. Infatti praticamente nella sentenza viene condannato il pubblico ministero Angelo Renna per guida in stato di ebbrezza. Ora il problema è che c'era un caso di omonimia, solo che hanno dovuto fissare un'udienza riparatoria perché Angelo Renna, oltre che essere il PM non l'imputato, non ha nemmeno l'automobile. Quindi praticamente nel dispositivo emesso il 20 gennaio il suo procuratore Renna era titolare di un fascicolo a carico di un uomo accusato di aver guidato ubriaco e poi condannato a 8 mesi di reclusione fino a 2.800 euro di ammenda per guida in stato di ebbrezza e altri reati commessi al momento di controllo da parte delle forze dell'ordine. Il problema è che si chiamava Angelo anche il condannato, e il magistrato nel trascrivere la cosa l'ha scambiato per il PM, quindi è stato condannato il PM per guida in stato di ebbrezza pur non avendo lui la macchina. Attenzione, il rischio. E dopo aver strappato, spero, un sorriso, andiamo con le amarezze, perché al quarto posto i furbetti del tesserino tra i senatori. Che cosa è successa? I senatori della Repubblica Italiana hanno, non tutti, ci mancherebbe, ma hanno la poco bella abitudine, mettiamola così, sto per dire un'altra parola, di lasciare inserito nel loro scranno il tesserino per poi riprenderlo a fine seduta. Perché questo? Perché dimenticano il tesserino inserito? Perché verranno in questo modo considerati presenti a tutti gli effetti. Il voto non risulterà, ma verranno considerati presenti. In questo modo la decurtazione prevista per chi non partecipa almeno al 30% delle votazioni effettuate non scatta. Il trucchetto può fruttare fino a 3.500 euro al mese, perché la quota, che è la quota complessiva della diaria, che si aggiunge ovviamente all'indennità fissa da senatore. E il Presidente del Senato, Pietro Grasso, ha incaricato il Questore Antonio De Poli di fare una verifica. Il caso però si è rivelato ben più serio a questo punto, se ne dovrà occupare l'intero Collegio dei Questori del Senato, perché al Senato praticamente l'astensione è considerata voto contrario e quindi bisogna garantire ai senatori la possibilità di essere presenti ma non votanti. I tesserini dimenticati vengono parzialmente raccolti, c'è chi tra i commessi del Senato dice attenzione, insomma, ne troviamo tantissimi. Pensate che in questo modo il 10 febbraio all'audizione in commissione difesa sulla missione in Somalia erano presenti, oltre al presidente La Torre, solo 4 esponenti del 5 Stelle, 2 del PD, 1 del gruppo per le autonomie, 7 membri su 24. Del resto, la missione in Somalia, devo fare un dettaglio. In compenso la diaria corre perché dalla legge del 1261 spetta a tutti i parlamentari a titolo di rimborso delle spese di soggiorno. Dal 1 gennaio 2001 è stata portata a 3.500 euro mensili, appunto, che insomma che viene decurtata di 200 euro per ogni giorno di assenza. Ma appunto, se lasci il tesserino, questo non scatta. Andiamo al terzo posto della classifica. Sì, vediamo, uno potrebbe anche trovare altri modi, scrivono gli ascoltatori, avere il tesserino inserito e poi però mostrare che fisicamente sei lì. Va bene, un cavolo, però. Andiamo al terzo posto della classifica, l'ATAC di Roma, che ci dà sempre delle grandi soddisfazioni. L'ATAC di Roma, già ce ne occupiamo in tantissimi modi, per le ruberie, per i conti, per il deficit, per l'orario degli autisti che facevano 730 ore l'anno scorso, quelli di Napoli quelli di Napoli 850 ore l'anno, a Milano 1200 ore l'anno. E infatti a Roma guidavano 32 ore contro le 36 ore di Milano gli autisti degli autobus. Ma c'è un problema: a febbraio a Roma, altro che servizi per le famiglie, per gli studenti che vanno a scuola, quello di cui parlavamo prima, a febbraio a Roma, complice il parco mezzi autobus che è vecchissimo, in media ha più di 10 anni, un'età media sopra i 10 anni, esatto, il numero di autobus e tram che escono ogni giorno a febbraio è identico a quello previsto per il periodo estivo, quando però c'è la chiusura delle scuole, la gente va in vacanza e si riduce la necessità di mezzi, ossia 1367, ossia 300 tra autobus e tram in meno rispetto a quello che dovrebbe essere la media ordinaria. Non sono pochi 300 autobus e tram in meno al giorno, e emerge da alcuni documenti diffusi dall'agenzia di stampa praticamente il numero elevato di guasti riguarda il 25% dei motivi per cui i mezzi si bloccano. I guasti meccanici si aggiravano intorno al 18% nel 2013, adesso sono il 25% del totale. Gli autisti hanno paura di perdere il lavoro perché sono 5.800, già non avevano dei tassi di produttività altissimi e temono che vi possa essere un ridimensionamento. È tornato l'attacco Stefano Esposito, senatore del PD ed ex assessore capitolino ai trasporti, che ha detto: la cosa non mi sorprende affatto, nonostante ad agosto avessimo stanziato 50 milioni cash in contanti per ATAC al fine di mantenere i mezzi, io ero abbastanza sicuro che quel gruppo dirigente che c'era, che io ho definito scarso e che Marco Rettighieri, il nuovo direttore generale dell'ATAC, ha iniziato a mandare a casa, non sarebbe stato in grado nemmeno di spenderli. Anzi, sarebbe interessante se qualcuno gli chiedesse che fine hanno fatto quei 50 milioni visti i risultati. Rettighieri, lei è appena arrivato, ma ce lo chiediamo anche noi, che fine hanno fatto quei 50 milioni? Andiamo al secondo posto della classifica. C'è qualcuno che dice: ah, io la classifica non la sopporto. Beh, ci spieghi perché. Calabria, Regione Calabria. Era un po' che non compariva in classifica la Regione Calabria. Allora, questo è un capolavoro da studiare nelle business school, nei master di finanza. Cosa succede? Succede che la Regione Calabria ottiene un fondo europeo, i fondi comunitari, da 76 milioni di euro. Che cosa dovrebbe servire questo fondo? Per i programmi operativi regionali, ma soprattutto per finanziare lo sviluppo delle piccole e medie imprese calabresi. Lo ottiene il fondo 2007-2013. Allora, che cosa fa la Regione Calabria? Se ne è accorto, diciamo, il nuovo presidente, e la responsabilità va all'ex presidente di Fincalabria, Luca Mannarino, che era già tesoriere di Forza Italia ed era stato nominato dalla precedente giunta regionale di centrodestra alla guida di Fincalabria. È stato lasciato dal governatore nuovo per un anno. Il nuovo governatore si chiama Mario Oliverio del PD. Allora, Fincalabria decide di utilizzare questi 76 milioni di euro. Ma come? Allora, una parte era riuscita anche a investirli. Gli mancavano, gli ballavano, come dicono i ragazzi, 47 milioni di euro su 76, che sono praticamente il 60%. Allora, che si inventa il nuovo Gordon Gekko della Calabria, Luca Mannarino? Si inventa di metterli tutti in obbligazioni vincolate fino al settembre del 2016. Allora, c'è un piccolo problema, perché intanto bisogna capire se queste obbligazioni vincolate non stanno perdendo, ma soprattutto, siccome scadono a 2016, tu per quella data, quando riavrai indietro questi soldi che hai messo in obbligazioni vincolate, dovrai subito prendere e ridarli a Bruxelles, perché Bruxelles dice: o li usi entro un certo periodo, o se no me li ridai, io li distribuisco a altre aree depresse che ci sono in Europa. Quindi, certo, c'è un'altra possibilità, la terza, che possono essere svincolate prima, cioè li ritiri prima della scadenza. Peccato che vai a pagare 685 mila euro di commissione d'uscita. Vuoi i soldi prima? Devi pagare. Quindi, nel migliore dei modi, almeno hai buttato via quasi 700 mila euro. Nel peggiore, li tieni vincolate fino al 2016 e poi le ridai a Bruxelles. Ma soprattutto io vorrei sapere perché in una regione come la Calabria, visto che continuiamo a parlare di progetti, di investimenti e facciamo una battaglia su questo, il presidente ex presidente di Fincalabria, Luca Mannarino, non è riuscito in questi anni a trovare un modo per le piccole e medie imprese calabresi di spendere 47 milioni di euro. E tra l'altro lui era stato anche così diventato famoso per le cronache giornalistiche, Luca Mannarino, per un insieme di irregolarità in questa gestione. Adesso c'è il rischio che possa indagare anche la procura di Catanzaro o la Corte dei Conti. Fincalabria è infatti finita al centro di un'inchiesta sulle assunzioni di parenti, amici e vari amici politici, con descrizione di consigli di amministrazione fatti in piena notte senza revisori contabili dei conti, mo scopriamo anche perché, banche che accettavano la sottoscrizione dei titoli a rischio nonostante sapessero che si trattasse di fondi POR, cioè fondi che servivano per le piccole e medie imprese, i fondi europei, e cottimi fiduciari senza autorizzazione nel consiglio di amministrazione e strani estratti conto di carte di credito. Questo è emerso anche dall'indagine del neo presidente di Fincalabria, Carmelo Salvino, che è un'indagine che lui ha avviato dopo l'insediamento. I fondi POR, che verrebbe da dire fondi porca miseria. Allora, questo per quello che riguarda la Calabria. Complimenti all'ex numero uno di Fincalabria, che non è riuscito a spendere 47 milioni di euro in Calabria. In effetti, quando c'è tanta ricchezza e quando ci sono zone così ricche e a tale densità industriale, con servizi di welfare così ben erogati, è difficile spendere i soldi per le piccole e medie imprese in Calabria. Andiamo sul traffico e poi chiudiamo con il primo posto della nostra poco invidiabile classifica. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, al primo posto abbiamo messo non solo per il danno, per la parte economica, è tutto legale, ma diciamo per la mancata coerenza. anche se siamo rimasti un po' in dubbio se mettere al primo posto la regione Calabria con questi 47 milioni messi in obbligazioni invece che dati alle imprese, però obiettivamente era talmente evidente la poca coerenza della signora Eva Lozzi, adesso raccontiamo la vicenda per chi se la fosse persa, che abbiamo preferito dare a lei e quindi a quello che sarà, diciamo, il magro lascito dello Stato italiano alla passionaria del Sud Tirolo, Eva Klotz, figlia del famoso bombarolo della Valpassiria, volevano l'indipendenza a tutti i costi dell'Italia, che era il padre, perché insomma non tanto per la cifra e per l'atto, è tutto legale, ma anche quello della Calabria era legale, il problema è l'incapacità che viene condannata, quanto per, diciamo, la sua reazione. Allora andiamo al primo posto. And the winner is... appunto la passionaria del Sud Tirolo Eva Klotz, che ha preso 945 mila euro come compensazione della sua pensione da consigliera provinciale. Non si tratta... allora, e fin qua dici, ma come cavolo è possibile? Però lui avrei voluto da qualcuno che continua a sputare sull'Italia e che dice che l'Italia bisogna andarsene, bisogna uscire da Roma, non mi ricordo più la frase, com'era, lontani da Roma, quella dei vecchi indipendentisti o terroristi dell'Alto Adige. Beh, io vorrei dire, almeno per coerenza, uno, come fanno anche attori al premio Nobel, vede, guardate, io avrei potuto ricevere questi 945 mila euro, ma non li voglio da uno Stato che non riconosco, che per noi è uno Stato usurpatore, che ci domina, noi vogliamo l'annessione all'Austria. Invece, quando arrivano i soldi non conoscono patria, pecunia non olet, ma non ha neanche, diciamo, passaporto, perché non solo li piglia, ma li difende strenuamente. Non si tratta di un anticipo sulla pensione, ma di un compenso per il fatto che la mia pensione mensile è stata quasi dimezzata da 7.000 euro a 2.800 euro. Sembra Razzi, non sembra Eva Klotz, sembra un normalissimo parlamentare italiano che difende tutti i diritti. Sono stata in consiglio regionale per 31 anni, avevo già maturato i requisiti per la pensione e avrei dovuto ricevere 6.000 euro. Quindi questi soldi mi spettano perché sono una compensazione, 945.000 euro per aver... per 31 anni chiesto la separazione di quello che chiamano Sud Tirolo, che noi chiamiamo Alto Adige, dal resto dell'Italia, schifando lo Stato italiano. Ho ricevuto quanto previsto dalla legge. Sì, ma quella austriaca va gliela a chiedere a sto punto. Comunque, sentiamola. Quanto ho? Due minuti? Sentiamo questo passaggio della difesa strenua della passionaria, non dei confini sacri della patria, ma della sua pensione alla Zanzara con Giuseppe Cruciani. Come stai innanzitutto? Sì, va bene, me la cavo. Se la cava, nonostante tutte queste critiche, se la cava. Critiche, sì, io sono a posto, non ho rubato niente, mi presento a tutte le domande, perciò non ho niente a nascondere. Lei non deve nascondere niente perché dice, io ho preso i soldi che sono previsti. Ma sì, quelli che io avevo versato tutti questi anni. Però certo. Voi avete deciso da soli quanti soldi versare, cioè i vitalizi sono comunque molto più della pensione che prendono gli italiani. No, per farle capire. Sì, mi faccia capire. Io sono entrata nell'83 in consiglio provinciale, no? Sì. Dagli anni 60 era una legge e a base di questa... noi consiglieri regionali eravamo agganciati al sistema mensile vitalizio dei parlamentari. Sì. E allora era previsto che bastava una sola legislatura, cioè 5 anni di consiglio, che si poteva andare prendere a 60 anni di vita un terzo di uno stipendio. Ma questo era un privilegio? Privilegio o no, era quella la situazione della legge. È un piccolo privilegio. È un privilegio, no, non piccolo, c'è dubbio. Piccolo, piccolino. Ma che cosa le devo dire? Non ho fatto io quella legge. Ho istituito... No. In parte l'ha fatta lei la stessa legge. Sì. L'ha approvata, dunque ha approvato la legge che le ha consentito di incassare quei soldi. No, non avevamo in mano nessuna lista... con le cifre che venivano riportate dopo. Va bene, d'accordo, quello sì, però sì. La legge che ha consentito di incassare subito l'ha approvata pure lei. Tutti insieme, il conquaglio. Tutti insieme il conquaglio, è bellissimo, è come mandare a Remengo... lotte patriottiche, tutti insieme abbiamo provato il conquaglio. Sembra Razzi, non c'è nessuna differenza. Allora, Carmen Lamacchia, presidente e fondatore di New Gluten World, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, da Foggia, dopo il GR24 ci racconta come ha lanciato e ha avuto coraggio anche di lanciare un'attività in questi anni e partire con un'attività in questi anni di crisi. 349-238-6666, GR24 adesso, vai. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. È stato scorretto con Eva Klotz, si vergogni, mica l'hanno chiesto loro di essere annessi all'Italia, è giusto che ogni popolo decida a conquistare. Mi scusi, io mica sono entrato nel, voglio dire, su Tirol Volkspartei può aver voglia di annettersi all'Austria. Ho solo detto che se per 31 anni tu chiedi di uscire da questo schifo di paese, disprezzi l'Italia e anche in parte gli italiani, hai portato avanti la politica con altri mezzi, diciamo, di tuo padre che era un terrorista e metteva le bombe tra lici, ti chiami Eva Klotz, sei la passionaria dell'Alto Adige, del Sud Alto Adige come lo chiamo io, o Sud Tirolo come lo chiamano loro, beh, insomma, pigliarti 945.000 euro, ma soprattutto votare la legge regionale che ti permette di andare all'incasso subito di una pensione d'oro da 945.000 euro, ma non si può sentire. Com'è? Abbiamo deciso tutti quanti con guaglio, congiuntamente, cioè in quel caso l'Italia era tutta unita, viva Garibaldi per Eva Klotz quando c'è da decidere la pensione, poi per il resto no. Ma dai, sì, è come Capanna che difende Vitalizio, come Razzi, quello è, forse a forza di stare in Italia è diventata più italiana di quanto non sia, non pensi la signora Eva Klotz, molto italiana. Allora, torniamo invece a chi, ai casi virtuosi che presentiamo ogni settimana. Carmen Lamacchia, presidente e fondatrice di New Gluten World, buonasera. Buonasera di nuovo. A lei. Buonasera. Dove a nasce lei. New Gluten World e cosa fa? E quando allora, nasce? New Gluten World è uno spin-off accademico che nasce a Foggia ad aprile del 2015, con lo scopo di sviluppare a livello industriale e quindi assicurare la massima penetrazione sul mercato di una tecnologia brevettata dall'Università di Foggia, una tecnologia denominata gluten friendly perché riesce a detossificare, cioè a modificare la porzione tossica del grano in modo tale che questo grano e tutti i prodotti che deriveranno da esso potranno essere finalmente utilizzati dai celiaci che attualmente utilizzano una dieta senza glutine, con gravi conseguenze a livello diciamo sociale e anche economico. Quindi, se ho ben capito, questa scoperta, diciamo, riuscirebbe a neutralizzare l'intolleranza del celiaco, ho capito bene? Non l'intolleranza, ma celiaco tornerebbe a mangiare quello che mangiava prima dell'insorgenza della patologia. Ma è vero che in questo modo ci sarà anche un risparmio, perché i celiaci pagano ben caro la loro dieta. Se non ricordo male, un pacco di pasta da celiaco costa tra i 4 e i 6 euro. Sì. Il celiaco con questo tipo di diciamo di tecnologia, questa tecnologia avrebbe un impatto sociale fortissimo sul consumatore, sul paziente, non solo dal punto di vista psicologico, salutistico, ma anche economico. Ci sarebbe un risparmio dell'80% del costo del prodotto, di quanto attualmente spende per i prodotti senza glutine. Sì, qualcuno mi scrive di Alessio Morosin di Indipendenza Veneta, che ha rinunciato al suo vitalizio. Beh, bravo, non lo sapevo, non si arrabbi. Torniamo invece sulla vostra scoperta. Avete fatto un accordo commerciale perché avete scoperto, diciamo, un principio, un metodo, il gluten friendly, ma poi per produrlo occorre fare un accordo commerciale con qualcuno che faccia questi prodotti, no? Assolutamente, perché infatti lo spin-off nasce proprio per questo e i fondatori dello spin-off sono l'inventore della tecnologia l'Università di Foggia che ha brevettato la tecnologia, poi un grande gruppo industriale, il gruppo Casillo, che è il nostro compagno di viaggio, il nostro quindi partner industriale, che ha le competenze per poter portare la tecnologia a maturazione industriale sul mercato. Allora, che fatturato pensate di raggiungere e chi vi ha dato una mano e quante persone impiegate? Sì, diciamo. Scusi, quanti anni ha lei? Per curiosità? Io ne ho 43. Bene, bene, non si chiede mai una donna, però. Ma in questo caso lei è un'imprenditrice. Prego. Okay. Diciamo che facendo una previsione prudenziale in 5 anni New Gluten World potrebbe fatturare 44 milioni di euro solo coprendo 22 paesi del mondo, dei 105 in cui siamo in espansione, appunto con in estensione con il brevetto, e considerando quindi una royalties del 6% sui prodotti appunto venduti nei 22 paesi. Ovviamente il mercato che New Gluten World vuole aggredire. Ma l'avete brevettato questa scoperta? Assolutamente, c'è un brevetto italiano e uno in estensione in 105 paesi del mondo. Ok, quindi puntate a 44 milioni più o meno nei prossimi 5 anni. Nei prossimi 5 anni, solo coprendo diciamo 22 paesi. Chi vi ha dato i soldi e quante persone impiegate? Allora, il gruppo Casillo ha finanziato già 800 mila euro per diciamo la fase di scale up industriale. Al momento siamo in 12 tra manager, advisory board e expert e ricercatori che lavorano alla scoperta. Quindi 11 persone, pensate di aumentare questo organico visto i tempi? Ovviamente sì, poi nei 5 anni ovviamente l'organico noi pensiamo di aumentarlo almeno a 32. A 32, beh, in bocca al lupo quindi a lei, soprattutto anche perché la realtà del Foggiano, come altre realtà del nostro Mezzogiorno, ha un tasso di disoccupazione assolutamente fuori regola e altissimo in questi anni, quindi è particolarmente importante quando raccontiamo start-up, chiamiamole così, iniziative appena nate, imprese che nascono in quell'area e in altre aree del nostro Mezzogiorno. Quindi complimenti, in bocca al lupo a lei Carmela Macchia, agli 11 tra ricercatori e distributori che avete assunto, sperando che diventino 32 e sperando appunto che vadano bene i brevetti nei paesi, nei 105 paesi in cui volete registrarli. Andrea Fontana, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. La giornata oggi priva di grandissimi spunti, meno 1,19% la borsa a Milano, meno 0,40 a Parigi, meno 0,80 a Francoforte, meno 0,36 a Londra, meno 0,26 il Dow Jones. Devo dire che andando sui singoli titoli, bene media 7 più 3,40%, qui c'è rumors, voci di mercato. Era arrivata a guadagnare anche il 6% durante la seduta. Oggi si erano mossi abbastanza bene, poi hanno un po' ritracciato i titoli del lusso, Tod's alla fine più 1%, Ferragamo più 0,20%, male il settore bancario, soprattutto le popolari, quindi Mediaset e le popolari. Sì, per quanto riguarda Mediaset, un'indiscrezione riportata dal Sole 24 Ore e anche da qualche altro organo di informazione sulla ripresa di trattative, di contatti tra Mediaset e Vivendi, con al centro il tema della pay TV di Mediaset, cioè premium, possibile alleanza commerciale di cui si parla da tanto tempo o addirittura una vendita, un'integrazione su questo asset che era stato valutato a suo tempo da Mediaset intorno ai 900 milioni, l'anno scorso era arrivata anche un'offerta di Sky, naturale che il titolo quindi si muova, anche perché dall'inizio dell'anno Mediaset ha perso il 15% su questa indiscrezione, aspettando conferme o un avanzamento delle trattative. E in generale le banche sono state il settore più penalizzato in Europa, ha perso l'1,4%, ha pesato in qualche modo questa indicazione arrivata dalla BCE, per cui per il 2016 sarà necessario ulteriori punti di coefficienti patrimoniali da mettere in cantiere per le banche per rispettare le soglie richieste, soffrono soprattutto le popolari, come tu dicevi, e oltre alla popolare dell'Emilia Romagna, che ha perso il 6%, soffre Banco Popolare e Popolare di Milano, perché questa integrazione, questa alleanza che ormai sembra imminente, però non ancora vede la fine, e quindi si inizia a aspettare l'ufficialità con sempre più apprensione, e i titoli in questa situazione di incertezza soffrono: meno 2,5 la Popolare di Milano, meno 3,5 il Banco Popolare. Sì, anche Poste oggi in leggera ripresa invece, segnalo appunto, oltre che anche CNA, che invece non è andata bene alla fine, meno 2,15%, qui ci sono anche i conti della rivale, mentre tra i titoli, oltre a CNH, debole oggi tutto il settore petrolifero, il petrolio è tornato a calare, Tenaris meno 3,25%, Saipem, che comunque è calata non solo per questo, meno 4,45%, contiene invece il calo Eni allo 0,42%, sul fronte opposto, oltre a media, siete bene, Poste Italiane più 2,20, Prismian più 1,30, Tods più 1%, come dicevamo. Infine, migliori e peggiori, Olidata più 15,60, Bion più 13, Brioschi più 10, fronte opposto, Landi Renzo meno 7, Zucchi meno 6,25%. Traffico. Focus Economia. Allora, lo dico a un ascoltatore che ha avuto il nonno che è morto nella prima guerra mondiale. Guardi, non c'è nessun problema, nessuno, l'Alto Adige non ha nessuna intenzione di staccarsi dall'Italia, è il caso ancora di Eva Klotz, anche perché con queste pensioni, ma dove si staccano? Mica l'Austria dà 935.000 euro o votano leggi regionali di questo livello, ma chi si stacca? Si sta troppo bene a fare il politico anche anti-italiano, ma in Italia. Oh, ultimo tema, le vere cifre della spending review. Perché lo dico? Perché c'è un comunicato oggi del Ministero dell'Economia e Finanze che dice che in due anni, tra 2014 e 2015, il governo ha preso iniziative che hanno permesso di risparmiare 18 miliardi nel 2015, 25 miliardi nell'anno in corso, quindi nel 2016. Insomma, la cifra totale, considerati anche i risparmi del 2014, sono 3 miliardi e 600 milioni, 46 miliardi. Allora chiedo da un lato a Sergio Rizzo, editorialista del Corriere della Sera, a cui dobbiamo molto per la nostra top 5 di ogni venerdì. Ciao Sergio. Salve, buonasera. Non ci chiedere il copyright, ma parte degli articoli, degli sprechi che raccontiamo, alcuni, non tutti, sono e derivano dalla tua penna e da quella anche di Gian Antonio Stella, ma non abbiamo soldi qui a Sole 24 Ore, non che le Rizzoli se la passi meglio, ma non ci sono, alla pari. E grazie anche a Dino Pesaro, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao Dino. Grazie a voi. Sergio, Rizzo e poi Dino, ma qualcuno ha capito? Perché io qua sulla spending review, dopo che la Corte dei Conti ha detto guardate che l'avete fatta un po' male, perché avete ridotto la qualità dei servizi, bisogna farla con più attenzione, non vediamo molti margini, stanno fioccando cifre, addirittura 43 miliardi di risparmi. Sergio, ma tu hai capito da dove siamo arrivati o sono cifre? Prego. No, guarda, io penso che sempre il suo discorso, no? Sono le sforbiciatine alle punte. I famosi tagli lineari, sai, mi sa tanto della stessa storia che abbiamo visto negli anni passati quando c'era Tremonti, perché il bisturi lì non l'hanno affondato dove dovevano affondarlo, ma la Corte dei Conti lo dice molto chiaramente, dice sostanzialmente non avete evitato di tagliare quello che non si doveva tagliare, invece avete tagliato quello che non si doveva tagliare. Per esempio le famose partecipate, io voglio sapere che fine hanno fatto, sono 8.000, dovevano diventare 1.000, poi neanche quelle che il Tesoro avrebbe dovuto tagliare, che Cottarelli aveva detto che andavano tagliate, quelle sono ancora lì tutte quante. Sì, perché se non ricordo male il rapporto di Cottarelli, 8.000 partecipate di cui 3.000 in perdita, e con 800 che non avevano neanche dei bilanci, nel senso che non sapevi neanche esattamente come fosse la gestione ordinaria, diciamo, di quelle di quelle aziende. Dino Pesole, la sensazione è che il governo stia un po' rispondendo alla Corte dei Conti, però in tempi non sospetti, quando ci misero mesi a trovare il sostituto di Cottarelli, chi vi parla ha sempre detto che è stato un errore levare Cottarelli, comunque mesi per trovare Gutgeld e Perotti, poi Perotti se ne va, insomma questo tempo perso sembra che il governo invece non se ne accorga. Sergio Rizzo ha appena detto il sospetto è che questi siano tagli lineari, che è esattamente l'opposto della spending review, perché come ci hanno spiegato tutti gli ospiti, la spending review, la revisione della spesa, vuol dire che alcune spese le mantieni uguali, altre le aumenti, altre le riduci, le elimini del tutto, perché tu fai quello che gli inglesi chiamano fine tuning, cioè fai un intervento mirato, dettagliato, andando dentro le cose, capendo esattamente il costo, il servizio erogato. Beh, il punto fondamentale è che la spending review, chiamiamola revisione della spesa in italiano, revisione strutturale della spesa, non si è mai fatta. Ci ha provato Padoa-Schioppa nel 2008, l'aveva avviata ma poi sostanzialmente è naufragata. Cioè si continua a coltivare, secondo me, l'illusione che la revisione della spesa la si possa affidare a dei pur validi tecnici, quando è del tutto evidente che la revisione della spesa in Italia e ovunque è operazione politica in primis, perché bisogna decidere dove tagliare e a quali categorie dare fastidio. Quanto alle cifre, credo ci sia un po' di confusione, perché io qui davanti la tabella del Ministero, ma si parla di 25 miliardi nel 2016 e io credo che sia l'effetto cumulato del triennio, non è che possiamo poi ma che sommare, sono come sommare come, anno per anno come le mucche di Mussolini, cioè le conti, quante volte li conti questi 25 miliardi? O appunto, sono quelli dei tre anni, oppure non è che puoi contare 25 per tre anni e poi aggiungere anche gli altri tre anni. A me la cifra di 43 sembra enorme, ma Sergio Rizzo, è questo il punto, cioè che continuare a affidare, ma, perché Cottarelli il lavoro l'aveva fatto, adesso sbaglio. Guarda, io penso questo, no? Che sono, diciamo, parzialmente d'accordo con Dino, nel senso che io credo che la riduzione della spesa è vero, devono farla poi i politici, perché giustamente si tratta di intervenire sulle voci di bilancio, ma però ci deve essere prima una diagnosi, no? La diagnosi non può che farla un indipendente. La ragione per cui Cottarelli venne mandato via era perché era troppo indipendente, questo è il punto vero, no? Il medico, io non domando al medico per chi vota, sinceramente. No, io voglio che faccia che mi salvi la vita, dopodiché sta a me decidere se prendere medicine o meno, certo posso anche evitare di prenderle, in quel caso faccio una scelta politica, sì che la faccio, però diciamo il medico mi deve dire che malattia ho, no? Quando Cottarelli gli disse, per esempio, faccio un caso che sembra una scemenza, no? Quando Cottarelli disse che l'Italia era il paese più illuminato d'Europa e che si potevano risparmiare 400 milioni all'anno soltanto riducendo un po' le luci, no? E quella è spending review allo stato puro, no? È proprio quello che bisognerebbe fare, cioè entrare nelle pieghe di ogni singola voce, no? E andare a vedere quali sono gli sprechi. È banalissimo, è proprio il ragionamento del buon padre di famiglia. Bravo, spegni la luce quando non c'è la stanza, non c'è nessuno. Perché a botte di 400 milioni di euro, che sembrano pochi, obiettivamente sono pochi, però così ottieni le due cose che ci hanno sempre spiegato i tecnici, sono la prima che bisogna andare proprio su queste spese, 300, 150, 400 milioni di euro, e le sommi tutte, e poi che i tagli per essere efficaci devono essere permanenti, cioè se tu vai a comprimere un servizio, l'amministrazione locale poi magari non lo eroga più basso e poi riesplode quella spesa perché non ci stai più dentro, per cui devi usare, è come certe diete che non funzionano perché sono traumatiche, allora o perdi un chilo al mese, allora reggi, ma se tu pensi di perdere 10 chili in un mese, poi li rimetti su un mese dopo. Dino Pesole, il problema, secondo me, nell'usare l'esempio di Sergio Rizzo, è che oltre che non aver ascoltato il medico, abbiamo cambiato medico e gli abbiamo richiesto di fare un'altra diagnosi, non si poteva prendere tutto il materiale di Cottarelli to cure, no? Beh, diciamo che Cottarelli è andato via lasciando al governo Renzi, col quale evidentemente non ha trovato un grande feeling, un nutrito apprezzo il francesismo, diciamo. Un nutrito pacchetto di misure, e per la verità, stando a quello che dicono a Palazzo Chigi, una parte dovrebbe essere recepita nella prossima revisione della spesa, vale a dire il famoso taglio delle partecipate. Sì. Il problema è che lì c'erano previsioni di intervento anche sul comparto delle pensioni, per dirne una, e cioè su materie molto sensibili dal punto di vista politico-elettorale. Ecco perché io ritorno sull'argomento. Secondo me ci sono ampi margini di risparmio in una spesa pubblica che ammonta a 822 miliardi. Ampi margini perché ci sono sprechi pazzeschi e lo sappiamo. Il problema è che la ricognizione secondo me ormai c'è, perché abbiamo tali e tanti rapporti, basta guardarsi addirittura quello che scrisse Piero Giarda nel 2012, sono 100 pagine in cui si parlava di una spesa potenzialmente aggredibile di 100 miliardi, però appunto dopodiché bisogna andare lì col bisturi e decidere dove intervenire e a chi vuoi dare fastidio, e appunto per quello che poi tutto questo magari si paga poi in termini elettorali, e bisogna avere il coraggio di farle queste cose. Tutto qui. Sì, io poi vorrei capire, perché se uno volesse veramente farla, secondo me è vero che hai puoi pagare un dazio elettorale, ma puoi anche avere un vantaggio elettorale, cioè una spending review ben fatta, per esempio nel settore sanitario, che cioè può anche in una parte, non è che gli italiani sono tutti a favore, diciamo, dello spreco della pubblica amministrazione, lo vediamo noi, può avere anche un incasso elettorale, però devi farla bene, spiegarla bene e usare la diagnosi del medico, che a questo punto c'è, con buona pace di tutti gli altri. Grazie sia a Sergio Rizzo che a Dino Pesole, un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in studio anche questa settimana. Da Sebastiano Barigione l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.